Etiopia, Egitto, Sudan, il Nilo, la diga, l'identità, ma soprattutto l'acqua. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Ethiopia wants the Grand Renaissance Dam to be the driving force in its economic rebirth. The military headed onto the streets of Addis Ababa on Wednesday on the second day of unrest that's claimed more than 80 lives. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi ci assiste Luca Cremonese, in regia Roberta Frisani. 349-238-6666 per commenti e domande, sms, whatsapp, siamo anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Per commentare pure domande in una puntata di Nessun Luogo Lontano tutta africana. Lo sapete che in tante puntate di questo programma abbiamo spesso raccontato e utilizzato la lente della guerra dell'acqua per spiegare la grande attualità internazionale, la geopolitica. La si può applicare per esempio nel conflitto israelo-palestinese, notizie freschissime, il tentativo di annessione da parte di Benjamin Netanyahu. Le acque del Giordano fanno gola perché evidentemente l'acqua è fonte di vita, fertilità, aiuta l'economia, la guerra dell'acqua come formidabile leva geopolitica. Quest'oggi ci concentreremo in particolare sul Nilo e in particolare su tre paesi, Etiopia, Egitto e Sudan. Perché? Perché a giorni l'Etiopia dovrebbe ricominciare i lavori, che al momento sono dell'80%, sulla diga del Rinascimento, una gigantesca infrastruttura che promette di ridisegnare sostanzialmente il corso del Nilo e ridistribuire in maniera diversa le acque del prezioso fiume. Ma con quali conseguenze? 349-238-6666, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. I dossier internazionali che campeggiano qui sul tavolo della redazione di Nessun Luogo Lontano sono i fatti e le notizie che stiamo tenendo d'occhio e che vi riproporremo sotto forma di veri e propri approfondimenti magari nei prossimi giorni. Lo avete sentito dal GR, il Tribunale Arbitrale Internazionale sul caso dei Marò ha dato finalmente ragione all'Italia e quindi si chiude un periodo della recentissima storia italiana parecchio doloroso, particolarmente divisivo, in cui certamente sono stati commessi errori. E ci stiamo lavorando e vi garantisco e vi prometto fin da adesso che cercheremo di fare una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano per andare a rivedere quegli anni in cui evidentemente qualcosa non ha funzionato. Intanto, come sentivate dal GR, è arrivato un plauso da un po' tutta la politica italiana per la risoluzione di questo caso giudiziario. E poi in Russia, vi abbiamo dedicato una puntata, si è concluso quest'oggi lo spoglio dei voti del referendum per la riforma della Costituzione russa. La Commissione Elettorale Centrale ha annunciato che il 79,92% degli elettori ha espresso voto favorevole agli emendamenti che sono stati presentati. 21,27% si è dichiarato contrario. Oggi si chiude una vera e propria maratona elettorale che era iniziata il 25 giugno, ieri anzi perdonatemi si è conclusa il 1 luglio, oggi i risultati, e ha registrato un'affluenza, e questo è notevole, di quasi il 68%. Che cosa si evince? Il risultato era scontato, ve l'avevamo già anticipato e raccontato ampiamente. Vladimir Putin avrà la possibilità di aggirare sostanzialmente il limite dei due mandati consecutivi da capo dello Stato e si potrà candidare alle presidenziali del 2024 e del 2030. Sostanzialmente lo zar, citiamo sempre l'Economist, attenzione, potrebbe rimanere in carica fino addirittura al 2036. E poi Hong Kong, e il dossier è sempre caldissimo e forse il primo che io e tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano continuiamo a guardare, perché la Camera degli Stati Uniti ha approvato il progetto di legge che autorizza sanzioni contro le banche che fanno affari con i funzionari cinesi coinvolti nella legge per la sicurezza nazionale a Hong Kong. Ve l'abbiamo raccontato nelle ultime due puntate di Nessun Luogo Lontano. La Hong Kong che si conosceva probabilmente non esisterà più, una stretta sulle libertà personali, civili, di manifestazione e di espressione che prevede addirittura l'ergastolo e una legge che prevede addirittura l'estradizione. Paradossalmente uno di quei cinque punti che la rivolta di piazza di quasi un anno chiedeva fossero ritirati dalla governatrice Carrie Lam. Ecco, sostanzialmente è come se fossero rientrati dalla finestra con la longa manus di Pechino che si allunga su Hong Kong. Continuano gli arresti in territorio hongkongese, ma quello che sta accadendo è che nel frattempo vi sono aperture internazionali. Già qualche giorno fa vi raccontavamo da un lato dell'apertura della Gran Bretagna per bocca prima dello stesso Boris Johnson e poi del ministro degli esteri Rab, ministro degli esteri britannico, che si è detto sostanzialmente disponibile a concedere il passaporto ad alcuni hongkongesi. Le autorità di Taiwan nel frattempo, e questa è notizia molto molto fresca, hanno dichiarato che solo nella giornata di ieri avrebbero ricevuto 180 richieste di informazioni per il trasferimento, quindi cittadini hongkongesi che si stanno guardando attorno per sostanzialmente andare ad alimentare una diaspora, quella dei cittadini di Hong Kong all'estero, che potrebbe, qua vi cito altri due casi, non soltanto quello britannico ma anche quello australiano, perché anche l'Australia si è detta disponibile ad accogliere ad alcune condizioni gli esuli hongkongesi, dicevo, si promettono di dare battaglia. Si vocifera tra alcuni esponenti del fronte democratico hongkongese di istituire un vero e proprio parlamento in esilio in territorio britannico, che sarebbe un modo per tenere alta, nelle loro parole, la fiamma della libertà, è sicuramente un modo per, come dire, istituzionalizzare, dare una veste sicuramente più efficace a quella diaspora che, se le cose andranno come pensiamo, finirà in parte in Australia, a Taiwan e anche in Gran Bretagna. Infine, una notizia particolarmente inquietante che arriva dalla Germania, perché un'unità speciale dell'esercito tedesco verrà parzialmente smantellata e riorganizzata dopo che un'indagine della procura tedesca, appunto, ha dimostrato l'infiltrazione di militanti di estrema destra. L'unità in questione è il Commando Special Craft e, secondo il governo, era compromessa a un punto tale che non poteva più non essere riformata. Era necessario agire in modo rapido e radicale, ha detto la ministra competente Karrenbauer. Questo comando era stato fondato nel 1996, corpo dell'esercito specializzato e anche segreto, con membri e militari che avevano fatto parte di operazioni anche molto importanti all'estero, dalla Bosnia al Kosovo fino all'Afghanistan e all'Iraq. Quello che è emerso però era l'addestramento di una serie di civili anche a tattiche e tecniche di guerra e di guerriglia, e addirittura la progettazione per nascondere armi da guerra da usare nel caso di una presunta possibile sospensione dell'ordine costituito dall'immigrazione di massa. Ne hanno notizia alcuni media inglesi, fra cui Deutsche Welle, che racconta anche che in una partita di armi smarrita in una situazione sospetta e probabilmente finita nelle mani di questo corpo scelto, corpo speciale, c'erano 48.000 munizioni e 62 kg di esplosivo. Questi i nostri dossier internazionali, già i primi messaggi al 349-238-6666, adesso però noi andiamo in Africa, andiamo a ripercorrere le acque del Nilo, lo facciamo come al solito nostro in 90 secondi. Nilo, con i suoi quasi 7.000 chilometri, non è soltanto il fiume più lungo al mondo, ma rappresenta soprattutto la linfa vitale di 11 nazioni diverse del continente africano, come Kenya, Eritrea, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Uganda, Burundi, Sudan, Ruanda, Sud Sudan, Etiopia e da ultimo Egitto. Dalle acque dolci del fiume Nilo dipendono 300 milioni di persone. Il fiume è composto da due grandi rami che confluiscono vicino a Khartoum. Da un lato il Nilo Bianco, che ha origine negli altopiani della regione dei Grandi Laghi, tra Ruanda e Burundi. Dall'altro il Nilo Azzurro, che sgorga dal lago Tana in Etiopia. Quest'ultimo rappresenta il tratto più prezioso per i paesi a valle. L'80% dell'acqua del Nilo che scorre in Egitto deriva infatti dal Nilo Azzurro. Il 97% delle risorse idriche egiziane sono rappresentate dal lungo fiume ed è quindi evidente che con una popolazione di 80 milioni di abitanti in continua crescita e in quanto nazione più a valle del Nilo, l'Egitto sia estremamente sensibile a ciò che accade a monte dei suoi confini. Già nel 1978 il presidente Sadat dichiarò: «L'unica questione che può spingere l'Egitto in guerra è l'acqua». Nel 1985 l'allora ministro degli esteri del Cairo, Boutros Boutros-Ghali, disse: «La prossima guerra in Medio Oriente sarà combattuta per l'acqua, non per la politica». Queste dichiarazioni rappresentano forse una mera retorica politica del passato, ma per molti analisti e osservatori la grande diga del Rinascimento etiope rappresenta oggi la più grande minaccia alla stabilità idrica e politica della regione del fiume Nilo. E così in 90 secondi abbiamo ripercorso virtualmente, evidentemente, le acque di uno dei fiumi più importanti del mondo. Facciamo un piccolo passo indietro nella storia. Vi faccio sentire la voce di Donald Kaperuka, che nel 2013 era il presidente della Banca dello Sviluppo Africana, che sottolineava l'importanza di questo investimento per l'Etiopia. Sentite. My view? Guardo alla crescita e alla trasformazione dell'Etiopia. Oggi è uno dei paesi con il più alto potenziale di crescita nel continente. So che molti sono critici rispetto all'investimento molto elevato, ma non considerano due fattori: la crescita nel lungo termine e la stabilità macroeconomica. Questa la voce dell'economista Kaperuka, era il 2013. I colloqui, tentativi di accordi, perché avete sentito quanti paesi sono coinvolti, ma in particolare un triangolo particolarmente nevralgico che viene coinvolto da questi accordi, sono Sudan, Etiopia ed Egitto, sono andati molto molto a rilento, perché quello che si prospetta è veramente un cambiamento morfologico e quindi di conseguenza che avrà un impatto sulle popolazioni, sull'economia, ma anche sull'identità e sul bilanciamento geopolitico di questi paesi. Naturalmente la parte del leone l'ha sempre fatta storicamente l'Egitto. E sentite che cosa ha detto Al-Sisi proprio sulla diga del Rinascimento. Sentite. È intenzione dell'Egitto rilanciare i negoziati, lavorare nella direzione del raggiungimento di un accordo sulla diga Rinascimento il prima possibile. L'Etiopia si deve impegnare a non prendere decisioni unilaterali anche per quanto riguarda il riempimento del bacino, che andrebbe a minare la nostra fiducia. Cerchiamo di raccontarvi in questa puntata di Nessun Luogo Lontano quanto sia importante non soltanto l'Etiopia, complice anche la recentissima cronaca che ci danno una serie di proteste, peraltro represse nel sangue, almeno 81 i morti dopo l'uccisione di un noto cantante ad Addis Abeba, si è rischierato l'esercito. Vi racconteremo l'importanza di questo paese, l'Etiopia, ma come dicevo soprattutto l'utilizzo dell'acqua, della fonte idrica, in particolare di un fiume, come formidabile leva geopolitica e economica. E per soccorrerci in questa analisi do il benvenuto, Nessun Luogo Lontano, Emanuele Fantini, che è ricercatore, come si dice nel linguaggio anglosassone, in Water Politics and Communication all'Institute for Water Education di Delft nei Paesi Bassi. Professor Fantini, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno e grazie mille dell'invito. Allora, la diga del Rinascimento, 80% dei lavori sono stati completati, il riempimento potrebbe iniziare a brevissimo, l'Etiopia ha detto anche nelle prossime settimane, l'Egitto chiede più tempo per prepararsi all'impatto, quindi una maggiore scarsità idrica, peraltro un Egitto che sta vivendo un sviluppo demografico importante. Da questi pochi dati, Emanuele Fantini, si capisce perfettamente l'importanza di questa colossale opera. Perché è stato così complesso? Ci sono voluti anni e anni per raggiungere un accordo. Quali erano gli ostacoli per andare a completare il 20% di questa gigantesca opera? Ma direi che fondamentalmente ci sono due aspetti del problema. Quello tecnico e quello politico. E dal punto di vista tecnico, come anche abbiamo sentito nella registrazione di Al-Sisi, adesso la questione principale riguarda il tempo necessario di impiegare per riempire l'invaso della diga e come regolarsi in relazione all'andamento, alle variazioni del clima. Ovviamente l'Etiopia vorrebbe un riempimento rapido nel giro di pochi anni, l'Egitto punta a posticipare affinché non si interrompa il flusso d'acqua. sono questioni complesse, perché occorre mettersi d'accordo su, ad esempio, sulla definizione di siccità. Sì. Occorrerebbe avere una baseline, no? Quella che in termini tecnici si chiama baseline, ma purtroppo non ci siamo ancora. Gli studi sull'impatto ambientale e sociale, che erano stati affidati ad una società di consulenza francese ormai diversi anni fa dai tre governi, non sono mai stati completati, proprio perché i tre governi non hanno ancora trovato un accordo sui termini di riferimento e su che cosa deve essere misurato da questa, in questi studi. Sì. L'ostacolo però ancora più grande dal mio punto di vista è quello di natura politica identitaria. Il Nilo, ma come la maggior parte dei fiumi, non è soltanto acqua, risorsa idrica. E storicamente il Nilo in particolare ha giocato un ruolo chiave nel plasmare l'identità delle popolazioni che vivono lungo le sue rive. È un fiume sacro in diverse tradizioni religiose, è uno spazio di aggregazione, di socializzazione, come sa bene chi ha girato per le strade e i ponti del Cairo, ma è anche un'idea politica che ha ispirato identità nazionali, progetti di costruzione dello Stato, come dice lo stesso nome della diga, no? La diga del grande rinascimento etiope, quindi che va ben oltre la produzione di energia idroelettrica. Sì. E nelle negoziazioni, volenti o nolenti, questo bagaglio culturale, identitario e politico è presente e pesa sui volumi d'acqua, su quanta d'acqua deve raggiungere il Sudan e poi l'Egitto. Si può negoziare e arrivare a un compromesso, ma è molto più difficile scendere a un compromesso sulla propria identità, sull'idea del proprio passato, del presente e del futuro, no? dei nostri paesi. Sì. E soprattutto quando la legittimità dei regimi sul fronte interno scricchiola, come sta avvenendo ad esempio oggi in Etiopia. Sì, e come peraltro quindi, è avvenuto anche in Sudan molto recentemente. C'è una lunga epoca di transizione al quale Khartoum si sta più o meno abituando, perché le cose non vanno proprio benissimo nella giunta che viene condivisa tra militari e civili. La voce che state ascoltando è quella di Emanuele Fantini, ricercatore in Water Policy and Communication presso l'Istituto for Water Education di Delft, Paesi Bassi, che ci sta aiutando a capire la valenza anche identitaria, quasi iconica, del fiume Nilo. Qualche ascoltatore sta scrivendo al 349-238-6666 di ricordi di transiti su alcune dei Nili, perdonatemi la pessima espressione, che poi vanno a confluire nel grande Nilo. Io ho avuto la fortuna, per esempio, perdonerete questo vezzo tutto personale, di vedere in Uganda le Murchison Falls, la famosa cruna del lago, lì dove il Nilo entra e poi sbuca con una violenza impressionante, appunto viene definita cruna del lago. Lì si ha un'immediata impressione molto plastica di come l'acqua voglia dire vita e sicuramente energia. Altri messaggi al 349-238-6666 chiedono se siano sempre i cinesi che sponsorizzano queste opere colossali. Così Daniele, Emanuele Fantini, mi aiuti a dare una risposta. C'è una grossa azienda italiana che ci sta mettendo del suo, però ci sono anche aziende cinesi, no? Coinvolte in questo gigantesco progetto. Sì, le opere di costruzione della grande diga del rinascimento etiope sono affidate a un'impresa italiana, la Salini Costruttori, che in realtà è un'impresa italiana, ma è anche molto un'impresa direi etiope, perché è presente dagli anni 60, nel paese fin dagli anni 60 ed è il principale il braccio operativo del governo etiope nella costruzione non solo di questa diga, ma tutta di una serie di complessi di dighe, come quelli lungo il fiume Omo, ad esempio nel sud del paese. Era coinvolta un conglomerato di imprese che facevano capo al Ministero della Difesa etiope, METEC, che però è stato espulso e successivamente sciolto per tutta una serie di scandali legati alla costruzione, e lì sono subentrati per le turbine sono subentrate delle imprese cinesi. Sì. Ma la dimensione interessante di questa diga, è una delle specificità, è che è finanziata con fondi del governo etiope e della popolazione etiope, che è più o meno volontariamente invitata o costretta, come ad esempio nel caso di molti dipendenti nazionali, a investire in titoli, buoni, bond per finanziare il progetto. Sì. La voce che state ascoltando è quella di Emanuele Fantini, ci sta dando una mano a meglio capire l'importanza di questo colossale progetto. Sono certo, non lo state scrivendo, ma che qualcuno di voi si starà chiedendo: oggi Musumeci ci ha portato in Etiopia, ma dell'Etiopia a me cosa importa? Beh, ve lo spiego in 90 secondi. Con 109 milioni di abitanti e un reddito medio che nel caso degli operai non specializzati ammonta a 20 euro al mese, l'Etiopia è allo stesso tempo uno degli stati africani più poveri e più importanti per gli equilibri della regione. Ex colonia italiana, piegata anche a colpi di armi chimiche, ex regno del Negus Haile Selassie e poi regime comunista dello spietato dittatore Mengistu Haile Mariam. Negli ultimi anni l'Etiopia sta cercando di sanare i conflitti etnici e allo stesso tempo di far salire l'occupazione. Gli Oromo, la principale etnia della regione, storicamente discriminati ed esclusi dalla politica, hanno ottenuto nel 2018 un grande successo, con l'elezione di un loro rappresentante, Abiy Ahmed, alla carica di primo ministro. Abiy aveva posto fine all'ultradecennale conflitto con l'Eritrea, gesto che gli era valso un premio Nobel per la pace, e avviato una serie di riforme per garantire 2 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2025. Ma oggi l'Etiopia è di nuovo al centro di tensioni e si ritrova forse nel cuore di un gioco al di là delle sue capacità. Mentre Abiy viene accusato di derive autoritarie, la nazione continua a ospitare 1 milione di profughi provenienti dai paesi vicini e la Cina prosegue a investire in nuove fabbriche del settore tessile, seguita da molti paesi, tra cui l'Italia. Un vicino potente come l'Egitto, intanto, viene accusato di soffiare sul fuoco delle frizioni etniche e religiose per approfittare delle debolezze etiopi. Tutti i fattori che potrebbero condurre a nuove crisi, nuovi scontri e nuove fughe di massa dal paese. Questa è l'importanza dell'Etiopia, di questo paese che sta per mettere la quinta, l'accelerazione nel terminare i lavori di costruzione della diga del Rinascimento, con Emanuele Fantini, Institute for Water Education, Delft, Paesi Bassi. Tra pochissimo, adesso facciamo una piccola pausa, Fantini resti con noi, facciamo una pausa, sentiamo la borsa e poi l'ultima domanda per lei che ha sempre a che fare con il ruolo dell'acqua. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun luogo è lontano, la guerra per l'acqua. Lo sapete, molto spesso siamo ricorsi a questo grande lente, a questo concetto per raccontarvi dei conflitti o delle tensioni in giro per il mondo, dalla questione israelo-palestinese, ma volendo anche le primavere arabe. C'è un libro su tutti che vi consiglio, Water Conflict di Brahma Cellani, che è uno studioso indiano che anche lui ha toccato di prima mano quelle che sono le problematiche relative al conflitto per l'acqua. Quest'oggi però complice che cosa? Un raccordo che si sta raggiungendo fra Sudan, Egitto ed Etiopia, una diga, quella del Rinascimento, in cui sono coinvolte anche un'azienda italiana, in particolare la Salini in Pregilo, con un'opera titanica, e complice il fatto che tra pochi giorni probabilmente dovrebbe iniziare l'opera di riempimento. Che cosa accadrà su questi tre paesi? Beh, un ridisegno anche dei pesi geopolitici. L'Egitto da tempo deteneva in qualche modo un primato sul Nilo, e lo faceva forse, tornando indietro, addirittura da millenni. Adesso l'Etiopia, è il caso di dire, ci si mette di mezzo con questa mega struttura. Con Emanuele Fantini, ricercatore in Water Politics and Communication all'Institute for Water Education, Delft, Paesi Bassi. Un'ultima domanda, perché Fantini abbiamo parlato di Egitto e di Etiopia, e però il Sudan, che molto spesso è funestato da siccità, che impatto avrà su questo paese la costruzione della diga? Il Ma ricordavamo prima, no, l'importanza anche identitaria e politica dei fiumi, e questa complessità si ritrova anche in Sudan, dove il Nilo riflette la doppia identità del paese, quella araba e quella africana, in un dibattito che è tuttora aperto, no? I sudanesi si chiedono: siamo un paese africano e quindi i nostri interessi sono vicini a quelli dei paesi a monte come l'Etiopia o l'Uganda, o siamo un paese a valle, un paese arabo e quindi naturali alleati dell'Egitto, ma ancora siamo il paese del fiume e quindi di civiltà come quella nubiana che si sono appunto sviluppate lungo le rive del fiume, o siamo paesi del deserto e quindi beduini, le popolazioni del Darfur. Sì. Ed è un dibattito aperto in cui la natura, la cultura e la politica sono indissolubili. Venendo alla diga, la diga è costruita nell'ovest dell'Etiopia, molto vicino alla frontiera con il Sudan, quindi potenzialmente il Sudan da un lato potrebbe essere esposto a molti rischi, ma potrebbe anche essere il paese che ne trarrà maggiori benefici. E i benefici principali per il Sudan potrebbero essere quelli che riguardano un miglior controllo delle piene del Nilo, perché se è vero da un lato che il Sudan è stato esposto a siccità negli anni passati, è altrettanto vero che vi sono, proprio a causa delle esondazioni del Nilo, ricorrenti allagamenti e alluvioni. Sì. E quindi il controllo delle piene permetterebbe nel lungo periodo al Sudan di irrigare le vaste pianure nord-orientali del paese, per cui si ritiene che l'interesse sudanese, l'interesse nazionale sudanese sia quello appunto di vedere la diga completata ai fini di aumentare l'agricoltura, in particolare certo, l'agricoltura su larga scala intensiva, per diventare finalmente quella che è una delle ambizioni storiche dei governi sudanesi, il granaio dei paesi arabi. Sì. C'è da chiedersi se questo sia veramente l'interesse nazionale del Sudan, del paese, o piuttosto di specifici gruppi economici. Questo secondo me è molto importante da ricordare, perché noi parliamo spesso di Egitto, Sudan, Etiopia come se fossero realtà monolitiche, sì, ma l'idea di interesse e sicurezza nazionale nasconde il punto fondamentale: com'è che viene distribuita l'acqua all'interno di ciascuno di questi tre paesi, quali sono le attività economiche, i gruppi, certo, le parti della popolazione che ne beneficiano, e chi decide in merito a queste distribuzioni. Ecco, questo è un vaso di Pandora. È il caso di dirlo, e non c'è dubbio, ha fatto bene Emanuele Fantini, ricercatore Institute for Water Education, DEFT, in diretta con noi dai Paesi Bassi, a sottolineare anche questo aspetto. E mi permetto di aggiungere anche, in alcuni casi, come in quello sudanese, democrazia ancora tutta in divenire, per cui, come dire, in Egitto stendiamo un velo pietoso su quelle che sono le reali dinamiche democratiche, per cui attenzione anche a leggere con occhi occidentali quello che sta avvenendo, che certamente è storico, perché questo conflitto, questo dibattito sulle acque del Nilo è destinato, lo dicevamo, a ridisegnare tutti gli equilibri almeno di questi tre paesi. Ce l'ha raccontato Emanuele Fantini, che ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata. Il brano che state ascoltando è stato composto da Akalu, 34enne, che è stato ucciso qualche giorno fa, e che ha in Etiopia, minoranza degli Oromo, e che ha portato gli Oromo in piazza e ha portato una feroce repressione. Secondo il Guardian, che sta seguendo live gli sviluppi di questa drammatica vicenda, vi sarebbero al momento almeno 81 morti, c'è anche l'esercito schierato ad Addis Abeba. Tra pochissimo, col prossimo ospite, faremo il punto anche sulla situazione del paese, il cui interesse non è soltanto italiano ma europeo, cinese, insomma è un paese molto molto importante. E tra pochissimo ci torneremo. Beppe da Como, se non sbaglio, l'Etiopia è un paese a maggioranza cristiana, un altro motivo per creare conflitto con i vicini che sono in gran parte islamici. E in parte credo che Emanuele Fantini abbia risposto quando parlava anche di acqua come motivo identitario, questo fiume Nilo che per tutti e tre i paesi e per le tante etnie, per le tante comunità che dal Nilo traggono linfa vitale, è il caso di dirlo, è motivo di vita, motivo di identità. A volte anche motivo ispiratore di canzoni, di brani, di poesie, a volte motivo di timore nel caso delle esondazioni, di preghiera nel caso della siccità. Ma ripeto, attenzione, oggi in questa puntata dobbiamo decisamente toglierci gli occhi, le lenti, non gli occhi, gli occhiali di noi occidentali e abbracciare quelli africani per entrare in dinamiche che per noi sono sconosciute, anche se è vero che trattare la questione dell'oro blu, come viene ridefinito, cioè la guerra dell'acqua, c'è una letteratura ormai consolidata. Vi citavo Brahma Cellanei, ma ci sono tanti analisti, Peter Gleick del Pacific Institute, e spesso li abbiamo ospitati, che ci raccontano come la sovrabbondanza o la pochissima, la scarsità di acqua siano enormi detonatori, acceleratori di conflitti. Su tutti un caso emblematico, incredibile, come una diga, tutt'altra, andiamo in Iraq, vi ricordate la diga di Mosul, la presa della diga da parte dell'ISIS, la minaccia di farla saltare in aria, di inondare le popolazioni a valle? Ecco, quello è un esempio eclatante, spiegato dagli analisti e da questa letteratura, di come l'acqua, da obiettivo, io cerco di guadagnarmi il possesso di un territorio dove ci sono risorse idriche, può diventare arma, può diventare una formidabile arma nelle mani di miliziani evidentemente spregiudicati. Con queste lenti oggi vi stiamo raccontando i paesi del Corno d'Africa, e tra pochissimo staremo in particolare in Etiopia, perché vi dicevo, la situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico è piuttosto preoccupante. Io direi, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire le strade italiane e poi vi introduco il prossimo ospite. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Togliamo il grand'angolo, mettiamo lo zoom, andiamo per le strade di Addis Abeba per cercare di comprendere come l'uccisione, ancora avvolta nel mistero, di Akalu Undessa, cantante, attivista, un'icona per la lotta dell'indipendenza del gruppo Oromo, è stato ucciso, aveva 34 anni, da un gruppo di uomini non identificato. Le motivazioni non sono ancora note, c'è qualcuno sussurra vi siano motivi politici, tanto che l'opposizione è scesa in piazza e il premier Abiy Ahmed, quello della che ha fatto scoppiare la pace con l'Eritrea, si trova a fronteggiare una sfida davvero davvero difficile. Cosa sta accadendo? Ci aiuta a comprendere la situazione il professor Massimo Zaccaria, che insegna storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Pavia. Professor Zaccaria, buongiorno e ben ritrovato in Nessun luogo lontano. Salve, buon pomeriggio anche a voi. Allora, che idea si è fatto di questa strana uccisione, che sembra a tutti gli effetti un detonatore di rinnovate tensioni? Come al solito, l'Etiopia sta attraversando uno dei suoi periodi di forte tensioni interne, no? Che sono hanno delle profonde radici storiche, quindi i fatti di oggi, come il discorso legato alla grande diga del Rinascimento, sì, etiopico, hanno tutte delle origini storiche molto forti. Quindi dobbiamo fare uno sforzo per pensare all'Etiopia come a una costruzione tutto sommato abbastanza recente, cioè lo Stato etiopico come noi lo conosciamo oggi è il frutto di un'espansione territoriale che è avvenuta in buona parte verso la fine dell'Ottocento. Sì. Quindi ci sono delle componenti all'interno del paese che hanno un rapporto molto conflittuale con il centro, e l'altro elemento fondamentale è che la vita politica del paese è sempre stata dominata dagli Amara, che sono una componente importante ma non maggioritaria del paese. Quindi gli Oromo, che invece sono la componente maggioritaria dal punto di vista etnico, sì, dell'Etiopia, reclamano, ma non è una cosa recente, reclamano ormai da decenni, una maggiori spazi all'interno del paese, della gestione del paese. E l'arrivo di un presidente che è Oromo, ha aperto il dibattito, che è un dibattito estremamente delicato e che ha la tendenza a, in certi momenti, a uscire dal controllo, a non essere gestito. E quindi ci troviamo in una fase, in una di queste fasi, perché poi periodicamente gli ultimi anni sono sempre stati marcati da questo problema, che poi ha trovato negli Oromo, diciamo, l'elemento più se vogliamo più rappresentativo. Comunque ci sono altri gruppi che hanno nei confronti del potere centrale lo stesso tipo di atteggiamento e le stesse richieste. Sì, quindi una marginalizzazione non soltanto sociale ed economica, ma anche proprio della vita politica, della partecipazione, che in parte è stata colmata con l'elezione di Abiy Ahmed, che, lo dicevo, lo ricordavo, professore, qualche minuto fa, è stato celebrato come il grande fautore dell'accordo con l'Eritrea, un accordo che poi però piano piano nei mesi si è sgonfiato, non ha sviluppato tutti i suoi, le sue potenzialità, no? Mi sembra che sia stata una gigantesca bolla, forse noi anche giornalisti ci siamo entusiasmati troppo in fretta. Esatto, perché poi il problema è poi nell'implementazione degli accordi di pace. E dopo un percorso così difficile fra i due paesi era anche difficile immaginare un ritorno immediato alla normalità. Sono due paesi che hanno una conformazione politica molto diversa e che hanno iniziato molto lentamente un dialogo, però siamo veramente ancora agli inizi e appunto gli entusiasmi iniziali si sono velocemente raffreddati, perché ci sono delle questioni di fondo importanti che devono essere risolte, che non sono solamente il confine, ovviamente, anche se questa è la questione principale, però ci sono anche questioni lunghe e i due paesi escono da una guerra recente, ma anche una guerra, diciamo così, la guerra di liberazione che ha portato alla nascita dell'Eritrea, che è stata una guerra estremamente violenta e dolorosa, perché anche l'Eritrea fa parte di quelle zone che hanno una propria identità e che sono state assorbite con la forza dall'Etiopia, e quindi quando si parla delle relazioni fra i due paesi bisogna tenere in considerazione questa storia pregressa, questo progresso nelle relazioni, perché altrimenti non si capisce la lentezza, la complessità di questo riavvicinamento, che nonostante tutto tiene, anche se ancora adesso diciamo così sta esprimendo veramente il minimo, se vogliamo, però tiene, no? E quindi questo bisogna guardarlo come un elemento sempre positivo. E non c'è dubbio. D'altra parte, professore, lei mi insegna storia e istituzioni dell'Africa. Noi giornalisti abbiamo una certa fretta, siamo gli storici del presente, come qualcuno forse con troppe lusinghe ci definisce, per cui pochi mesi per noi sono già un'eternità, no? Rincorriamo la grande attualità internazionale, per cui abbiamo anche fretta di vedere dispiegati i propri effetti, ma come raccontavamo del Sudan, con questo governo di transizione ci vorrà tempo, lo abbiamo visto con le primavere arabe, ci vuole tempo perché la storia dipani i suoi effetti, vi siano aggiustamenti. Proprio sulla storia, professore, approfitto della sua competenza, lo ricordo, è con noi il professor Massimo Zaccaria, che insegna storia e istituzioni dell'Africa, Università di Pavia. Un ascoltatore ci chiede se il colonialismo italiano ha peggiorato i rapporti etnici in Etiopia oppure erano già presenti, e mi aiuta a rispondere, professore. Certo, ovviamente l'Italia, quando ha invaso l'Etiopia, nei pochi anni che è rimasto, perché poi è stata una questione di 6 anni, però per indebolire il potere etiopico ha giocato sulla contrapposizione etnica e quindi sicuramente ha creato delle fratture che erano già preesistenti, ma le ha rintuzzate, rianimate, alimentate, e quindi sicuramente non ha giocato un ruolo positivo per la riconciliazione, il riavvicinamento fra le varie componenti del paese. Certo, peraltro professore, mi permetto di interromperla, della mia limitatissima esperienza, zona dei Grandi Laghi, colonizzazione francese o belga, diciamo che è stata un'impronta del più generale del colonialismo, quella di utilizzare le leve etniche proprio come leve politiche per certo. concentrarsi meglio e riuscire a gestire meglio il potere, dinamiche che all'inizio ovviamente erano lontanissime per i bianchi europei che si affacciavano in questi paesi così lontani. L'ultima domanda, professore, poi la lascio al suo lavoro, ovviamente ringraziandola della disponibilità, riguarda il ruolo dell'Egitto. Al-Sisi si è sempre dimostrato molto riluttante, no? A entrare in questi dialoghi, a parlare, perché storicamente il Nilo è loro, il Nilo è egiziano, no? Le piramidi, la grande civiltà. Ecco, come ne esce l'Egitto da questa, dalla costruzione di questa diga che ormai ci siamo quasi? È una ferita anche per l'orgoglio, quell'orgoglio egiziano che Al-Sisi adesso sta, no? sta alimentando anche in maniera molto militaresca, ovviamente, date le sue competenze e origini. L'Egitto come ne uscirà, secondo lei? Dovrà fare appello alle sue capacità diplomatiche, che non sono limitate. L'Egitto, come l'Etiopia, hanno una grande tradizione diplomatica e quindi dovranno fare appello a questa grande tradizione e cercare di non mettere... non trasformare la questione in una questione identitaria, di identità nazionale, certo, diciamo certo. così, perché questo alla fine porterebbe a un irrigidimento delle posizioni. I margini per un compromesso ci sono, sì. Le difficoltà che sta avendo adesso il negoziato sono soprattutto legate a come gestire eventuali situazioni di crisi, cioè le siccità, perché certo. Dopo febbraio, dopo i negoziati di febbraio, ci si è arrivati a un accordo sui tempi di riempimento del bacino della diga, e quindi si è arrivati a stabilire 7 anni di tempo per riempire. Sì. Ma invece dove c'è il problema vero è in caso di siccità, come si deve comportare l'Etiopia? Certo. E qui l'Egitto vuole... legare l'Etiopia a degli impegni precisi, e dipende poi uno da cosa si definisce per siccità. Secondo, sì, sì, lo raccontavamo se la siccità proprio... ha una durata pluriennale, cosa deve fare l'Etiopia? Deve svuotare la sua diga per venire incontro ai paesi, all'Egitto e al certo, Sudan. Certo, chiarissimo. Quindi, chiarissimo. Si parte, professore, proprio dalle definizioni. Questo mi sembra di capire dalle sue parole sia il nodo ancora irrisolto. Devo davvero chiudere, ma la ringrazio tantissimo. Il professor Massimo Zaccaria insegna storia e istituzioni dell'Africa, Università di Pavia. Buona giornata e buon lavoro. E per me e per voi una parola. Alla quale obbediamo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, tutta la squadra. L'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.